State ascoltando Easy Rider. Is it all the same to you? No, I say I had the answer proven to be true. But if I were to share it with you, you would stand to gain and I'd lose. Oh,

di qualche decennio di grande musica prodotta anche in Italia. Quindi ricordo ancora a tutti il tuo nuovo album Eclectic Lands, avremo ancora occasione di sentirlo, però insomma grazie per essere stato Easy Rider. Grazie a voi. Ciao allora. Ciao. Maha. Superman. Hey bambina, cosa credi che sia un ultra fai d'amore superstar? Hey bambina, prova ad andare da James Brown e la sua sex machine. Sai bambina cosa credo di fare? Di sparire in mezzo al mare.